Siamo in collegamento con Teresina Caffi della rete Pace per il Congo. Le agenzie mondiali riferiscono di 35.000 profughi che hanno abbandonato la città di Kanyabayonga, vicina al confine tra la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda. Le fonti del governo di Kinshasa riferiscono che sono in corso combattimenti con l'esercito ruandese, mentre da Kigali sostengono che i combattimenti stanno interessando unicamente ribelli congolesi e truppe regolari. Teresina, è possibile fare dei chiarimenti? Sì, volevo segnalare che Kanyabayonga è piuttosto vicino all'Uganda, cioè è verso il nord del Nord Kivu, e però sicuramente il Ruanda è interessato. Quello che le voci della società civile ci dicono adesso assomiglia tanto a quello che fu detto all'inizio della prima guerra del Congo nel 96 e della seconda nell'agosto 98, e cioè il Ruanda non ha cessato le sue mire espansionistiche su questa zona, e quando non lo può fare direttamente, vedi le reazioni internazionali di questi giorni che hanno bloccato almeno verbalmente questa avventura, lo fa per interposta persona. Allora le voci che ci vengono dall'est del Congo, dal Nord Kivu in particolare, parlano di forze ruandesi presenti con le divise dei militari congolesi, e sicuramente ci sono anche congolesi che fanno il loro gioco, e questo è il dramma del Congo, c'è una parte e diventa poi la maschera dell'azione del Ruanda in Congo, cioè trovare una ribellione pronta a fare il suo interesse. E quindi questi scontri a Kanyabayonga non sono all'interno dell'esercito congolese, ma sono tra l'esercito congolese inviato da Kinshasa, che sta scendendo da nord per andare verso Goma, che è la porta d'entrata di queste truppe ruandesi, con militari ruandesi, militari anche congolesi però guadagnati alla loro causa, tutti vestiti con le divise congolesi, e così la MONUC dice non li vedo, ma la gente li conosce bene e ne sa anche i nomi, abbiamo perfino i nomi dei capi. Senta, gli scontri di oggi sono probabilmente legati anche al genocidio ruandese del 1994, però oggi come allora l'Occidente sembra aver dimenticato l'Africa centrale. Sì, purtroppo questo è vero, l'agenda mette soprattutto all'ordine del giorno l'Iraq, che è pure un altro dramma grandissimo, e anche dell'Africa centrale si fa memoria solo del dramma, grandissimo dramma del genocidio, dei 100 giorni della carneficina del 94, però mi riferisco anche a questo teatro che sta girando l'Italia 94, la verità va detta tutta. Va detto cosa che ha preceduto questi eventi, e anche questi eventi non sono stati analizzati in piena verità. E poi quello che ha fatto seguito, lo sterminio di tantissimi rifugiati Hutu ruandesi che erano fuggiti in Congo, e gli altri sopravvissuti sono rimasti in Congo e sono diventati il pretesto per un nuovo attacco. Cioè il Ruanda vuole questa parte di Congo, vuole le sue ricchezze, non ha smesso in questi anni di portarle in patria, è diventato esportatore di minerali che non possiede, e la complicità internazionale è qui, che ci sono mani che ricevono questi minerali e tacciono, e pur sapendo che è frutto di rapina. E quindi è avvenuta la prima avventura del 96, è venuta la seconda del 98 in Congo, perché Kabila non ci stava più a questa presenza straniera nel paese, e nel 98 è stato soprattutto durissimo per i congolesi, è stata l'epoca dei grandi massacri, e però adesso appaiono ancora i prodromi di un'avventura analoga, e cioè un'avanzata fatta con gruppi ribelli che servono a mascherarla, ma che sono intrattenuti da Ruanda stesso. Ecco, è questo che la popolazione sta gridando. Tornando ancora indietro nel tempo, nel 1965 Ernesto Che Guevara si trovava in Congo per fornire supporto ai ribelli che allora si opponevano al tentativo neocoloniale appoggiato dal Belgio. Dopo quasi 40 anni quelle zone sono ancora teatro di guerre. Quali sono le motivazioni profonde dietro a questa crisi? Sono soprattutto economiche, perché l'est del Congo è veramente uno scandalo geologico, c'è di tutto e non si cessa di scoprire. Adesso per esempio è molto valorizzato il coltan, che serve per tutta l'elettronica moderna, è una terra fertile anche dal punto di vista foreste, eccetera, e quindi, e poi quello che su cui noi vorremmo avere più chiarezza, ma di cui abbiamo tanti segni, è il piano internazionale nei confronti di questa regione. E cioè Kagame è stato visto, il presidente attuale del Ruanda, come un elemento di stabilizzazione, e la sua La sua politica è stata sostenuta chiudendo gli occhi sulla paura che regna nel suo paese. Io preferirei stare in Congo che in Ruanda. È duro stare in Ruanda quando se non sei del gruppo del potere. E ora quello che la gente sta continuando a dire e vorrebbe far sentire al mondo è che questo contrasto, che l'elemento che è considerato stabilizzatore in realtà è il motivo della destabilizzazione della zona. I problemi sono tanti, il Congo ha un governo instabile e ci sono dentro anche responsabili di massacri, però pian piano con la transizione che dovrebbe l'anno prossimo concludersi, si darà pian piano le sue istituzioni. È il Ruanda che deve essere in questo momento sanzionato, essere sorvegliato da vicino in verità, perché permetta al Congo di fare questo percorso di pace a cui ha diritto dopo 3 milioni e 800 mila morti dal 98.